Buone palme a tutti. L'ho detto. Ce l'avevo qua, lo volevo dire. Eppure, sapete, ho riflettuto e non sarebbe male approfittare delle tradizioni per mettere un po' di come dire, se io mi ricordo bene, le palme si portavano quando c'era qualche dissidio, c'era qualche cosa, no? E beh, non è male approfittare di questa tradizione. Siete d'accordo con me? Sì o no? Sì, e allora da domani tutti con le palme in mano. Però forse abbiamo qualcosa di meglio delle palme. Abbiamo l'amore di Dio che ci costringe a camminare e a fare quello che è la sua volontà. E credo che questo sia più influente, più determinante nel nostro cuore, nella nostra vita, che un ramo di palme, anche benedette secondo quel che deve essere. Stamattina ho imparato un'altra cosa, però magari poi ve la dico un'altra volta. Comunque oggi parleremo dell'amore di Dio. Io spero che non succeda come succede generalmente quando una coppia va a vedere un film d'amore, per esempio Il tramonto sul lago, no? Quei film d'amore. Allora che cosa succede? Che all'inizio lei, la donna, la ragazza, sorride, a metà c'ha il magone, c'ha un nodo alla gola, alla fine sta piangendo in lacrime. Invece per l'uomo è diverso, all'inizio dice ce la posso fare, ce la posso fare. Quando arriva a metà dice ma chi è che me l'ha fatto fare? E alla fine sta dormendo. E io spero che non succeda questo, ma non credo che succederà questo, perché parleremo dell'amore di Dio. E l'amore di Dio è qualcosa che non finiamo mai di scoprire. In Giovanni, devo mettere gli occhiali per forza, se no non vedo. In Giovanni, al capitolo 1, in 1 Giovanni, al capitolo 4, al versetto 7, è scritto così: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore di Dio, l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ora, questa affermazione Dio amore, onestamente io non riesco a capirla, non riesco a spiegarla, forse posso condividere a malapena quello che per me significa amore, che significa amare, ma essere amore io non ho né la cognizione né le parole per dirlo. Ma la Bibbia afferma che Dio ci ama e che Dio è amore. E sapete, noi non abbiamo tanta difficoltà a credere che Dio ci ama. Perché? Perché siamo influenzati da Babbo Natale. Perché ci conviene, è meglio avere un Dio che ti ama piuttosto di un Dio magari fastidioso che vuole, che è insustito con te, è arrabbiato e lo devi tenere buono con i sacrifici, con delle penitenze. Quindi ci conviene pensare, credere che Dio è amore, che Dio ci ama, e non facciamo onestamente tanta fatica. Se noi crediamo in Dio, crediamo che Dio ci ama. E crediamo bene, lo voglio già dire, non è che non voglio mettere assolutamente questo in discussione. Il versetto più usato, il versetto più citato, quello che magari abbiamo sentito tante volte, certamente è Giovanni 3,16. Chi è che non l'ha mai sentito Giovanni 3,16? Mai, nessuno. Nessuno, o mi state prendendo in giro, o vabbè, nessuno l'ha mai sentito, quindi tutti quanti sappiamo di che cosa stiamo parlando. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questo ci rilassa, questo ci mette tranquilli, questo ci fa ben sperare, dice oh, Dio c'è e mi vuole bene pure, quindi sono coperto, non ho da temere tanto. Ma io vorrei che noi questa mattina riflettessimo un po' più a fondo su quello che è l'amore di Dio, su com'è si manifesta. E io vi dico che ho preso tanti spunti da questo libro, Il Dio che c'è, di Donald Carson, che è, fa parte del pacchetto di studio del percorso 3. Ora, se non hai fatto il percorso 1 e il percorso 2, non potrai fare il percorso 3. Affrettati, perché è meraviglioso, perché è bello, perché è stimolante. E io voglio ringraziare sia Noemi che Micaela, che la loro squadra, che tutti gli insegnanti che si dedicano a questo per formare la Chiesa. Non smettere mai di avere voglia di scoprire di più, di imparare di più, di apprendere di più, perché ti arricchisce, ti dà più consapevolezza in quello che credi, in quello che speri, in quello che annunci. Ed è molto importante avere la certezza di quello che noi diciamo, e avere anche la consapevolezza ed essere sicuri di quello che diciamo. Quindi grazie a tutta la squadra che si dedica a questo. Ci siamo mai chiesti che cosa dice la Bibbia a proposito dell'amore di Dio? Ed è importante che lo facciamo, perché se Dio è amore, conoscendo come si manifesta il suo amore, conoscendo come ama, conoscendo quello che significa, conosciamo di più Dio, conosciamo di più chi Lui è, come agisce, che cosa vuole, che cosa ci dona. Abbiamo qualcosa di più pratico, di più consapevole nelle mani. Sapete, tante volte, una volta è capitato che sono andato a comprare il telefonino, e quando non ce l'ho neanche qua, no, ce l'ho qua, è spento però. Sono andato a comprare il telefonino e Noemi dice: papà, quel telefonino tu non è per te, perché fa delle cose che tu neanche immagini. Ed effettivamente è vero, per me il telefonino basta che posso telefonare, posso ricevere una telefonata, e adesso ho imparato che c'è WhatsApp e che so usare WhatsApp. Quindi una volta che ho imparato queste tre cose, io sono a posto. Però chi se ne intende sa che i telefonini fanno molto di più, quasi da spaventarsi da quello che fanno. Ed è così con la parola di Dio, con Dio. Tu puoi accontentarti di qualcosa di superficiale, di qualcosa di tradizionale, di consueto, o puoi andare a cercare il di più, puoi andare a scoprire il di più. E quando scopri il di più, ti meravigli, dici: ma è possibile che io non lo sapevo? È possibile. Quindi per questo noi siamo qui, per questo noi facciamo i corsi, per questo è importante che dentro di noi non si spenga mai il desiderio di imparare e di crescere. Torniamo all'amore di Dio. L'amore di Dio, la Bibbia ci mostra che è perfetto, non gli manca niente, non si può migliorare l'amore di Dio, è perfetto, è immutabile, non può né crescere né decrescere. Quello è l'amore di Dio, è pieno, è completo, è come un bicchiere d'acqua pieno, non ne puoi aggiungere di più, non serve, è pieno, è inattaccabile, non c'è niente che può andare a corrodere l'amore di Dio per noi. Infatti in Romani, io ho preso qualche versetto così, ma ce ne sono tanti, Romani capitolo 8, 38, dice: infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Io mi sono trovato di fronte a una persona morta. Non so a quanti di voi è successo. Hai un sentimento e prendi coscienza di quanto poco puoi fare. Prendi coscienza di quanto vali di fronte alla morte. Di fronte alla morte, l'amore di Dio rimane lo stesso. Quindi è perfetto, immutabile, inattaccabile. L'amore di Dio è incondizionabile, cioè non è condizionato da chi lo riceve, dalle circostanze, da quello che succede, da come si sente, da come... Sapete, ci sono le mattine che io mi alzo e già so che sarà una giornata difficile, che non dipende dagli altri, dipende da me, dipende da come mi sento, dipende da come mi sveglio. Ed è in fondo è così, e quello succede. Beh, l'amore di Dio è diverso. Dio si alza sempre, ammesso che vada a dormire, col piede giusto. È scritto così in Matteo al capitolo 5, il versetto 45, che fa parte del sermone sul monte. A un certo punto Gesù dice: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Qui Gesù sta dicendo: Dio ama tutti allo stesso modo. Non è perché uno è bravo lo ama di più, uno è cattivo lo ama di meno. Non è che perché uno si comporta bene lo ama di più, e si comporta così così e lo ama così così. Noi siamo così. Noi siamo così. Ma Dio non è così. Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Gesù è andato sulla croce solo per gli ingiusti, perché non c'era un'altra categoria. L'amore di Dio è incondizionabile, non dipende dalle circostanze, non dipende da chi lo riceve, non dipende da niente, è perfetto. La Bibbia fa delle altre descrizioni, forse questo ci piacerà un po' meno. L'amore di Dio è selettivo. L'amore di Dio sceglie. Vi ricordate l'episodio degli apostoli quando erano nella stanza di sopra dopo che era sceso lo Spirito Santo? Dice, a un certo punto si rendono conto che dicono: prima eravamo 12, mo siamo 11, però dobbiamo essere di nuovo 12, perché nel Vecchio Testamento c'è una profezia che lo dice, quindi dobbiamo sceglierne un'altra persona che dall'inizio abbia seguito tutto il nostro percorso con Gesù. Che non è stato scelto né discepoli, però c'era. Essi sono presentate due persone. Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Questo è scritto in Atti, al capitolo 1, versetto 23. E pregando dissero: Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte, e la sorte cade su Mattia, ed egli fu aggiunto agli 11 discepoli. E Mattia è stato aggiunto, e Giuseppe? E Giuseppe si è andato a casa sua. Ora, fino a quando noi siamo Mattia, ci sta bene. Mattia. Ma se noi siamo Giuseppe, come ci sentiamo a essere scartati? Eppure questo è quello che è successo. E hanno pregato per farlo, non è una cosa che hanno tirato la moneta, forse hanno anche tirato la moneta in aria, ma hanno pregato prima, quindi erano sicuri che quello che accadeva era una scelta diretta di Dio. Trovate assurdo che Giuseppe abbia potuto pensare: Dio, ma tu mi ami? Mi ami veramente, anche se sono stato scartato? Oppure abbia pensato: ma tu ami più me o ami più Mattia? Se è stato scelto Mattia, l'amore di Dio è selettivo. Ma come, Stefano? Hai detto che è com'è che ho detto? Incondizionabile, e adesso stai dicendo il contrario. Non lo sto dicendo io, sto dicendo la parola di Dio. Ma c'è ancora un'altra cosa che voglio dirvi. Abbiamo detto che l'amore di Dio è immutabile, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, che fa sorgere il sole su tutti. Però c'è un episodio che quantomeno ci fa riflettere. Vi ricordate quando Gesù ha incontrato il giovane ricco? Giovane ricco, una persona ad hoc, molto meglio di me. Che cosa è successo? Che Gesù gli ha detto, devi fare questo, questo e questo, e lui gli ha detto, ma io già lo faccio, io, cioè, sto a posto. Sta. E Gesù quando ha sentito che la testimonianza di quel giovane ricco che ha detto, io già lo faccio, è scritto proprio in Matteo, al capitolo, Marco, capitolo 10, versetto 21, allora Gesù, fissatolo nel volto, l'amò. E gli disse, una cosa ti manca. Ora, se Gesù lo ha fissato nel volto e lo ha amato, significa che prima lo amava un po' di meno. Qualche cosa è successo, se no non sarebbe scritto. Gesù non è rimasto impassibile. Quindi l'amore, fatemi dire così, che Gesù provava verso quel giovane ricco, in qualche modo ha fatto un salto di qualità. E così è scritto. Ma come, Stefano? Hai detto che è incondizionato e adesso mi dici che dipende anche da... Ma che merrasta di messaggio è questo? È un messaggio per portare confusione, per portare divisione, per portare che cosa? È semplicemente un messaggio per mostrare quanto piccoli noi siamo. Perché probabilmente l'amore di Dio, anzi no probabilmente, certamente l'amore di Dio è tutte le cose che abbiamo detto. È perfetto. Non può cambiare. Non dipende dalle circostanze. Ma è anche selettivo e può anche crescere. Per noi vale una cosa o l'altra. Ma per Dio probabilmente è lo stesso. E sapete, quando mi sono ritrovato a pensare tutte queste cose, ho apprezzato di più la preghiera che l'Apostolo Paolo ha fatto per gli Efesini. Efesini capitolo 3, versetto 18. Il capitolo inizia dicendo, per questa ragione piego le ginocchia. Quindi sta pregando Paolo e poi un po' più avanti ne spiega una delle ragioni, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Paolo qua lo sta dicendo, è inutile che vi sforzate tanto di capire. Non ci arrivate. Ed è così. Quello che abbiamo bisogno di fare è di credere che questo amore è l'amore di Dio che ha per noi. E che se ha scelto Mattia invece di Giuseppe, qualche ragione c'era. Ed era per il bene di Mattia, ed era per il bene di Giuseppe, era per la gloria del suo nome. Quindi, nelle circostanze, negli episodi della nostra vita, noi dobbiamo sapere che l'amore di Dio si rivolge, si manifesta a noi in diversi modi e qualcuno lo possiamo capire più facilmente, qualche altro un po' meno, ma è l'amore di Dio per noi e abbiamo solo bisogno della guida dello Spirito Santo che ci guida nella verità per scoprire le cose che Dio ha per noi. Gesù ha detto, io ho tante cose da dirvi. Può darsi che aveva pensato anche a chiarire questo fatto. Ha detto, ma mo non ve li posso dire, perché quando verrà lo Spirito Santo, Lui ve li dirà. Allora dobbiamo nel frattempo credere. Vi piace questo fatto? Sì o no? Più o meno. Non siamo tutti convinti, però va bene. L'amore di Dio. Torniamo in Giovanni. A Mottola siete convinti di questo fatto? Sì, hanno detto sì. Giovanni 3,16, è Dio che si fa avanti per primo. È Lui che si fa avanti per primo. Fa la dichiarazione, come si usava una volta, ritornando di nuovo di moda, costa un po' di più perché c'è sempre qualcosa da fare, però una volta era più, vabbè, questo è un altro fatto. È Dio che si fa avanti e dice: poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Stiamo capendo che Dio sta dicendo a noi, sta dicendo a me: io ti amo. Lo stiamo capendo questo fatto. Perché se noi riusciamo a calarci in questo contesto, allora capiamo che dobbiamo muoverci con molta cautela. Io vorrei che noi considerassimo per un momento la nostra esperienza umana. Quando dico a mia moglie ti amo, e io lo dico almeno una volta al giorno, è vero, ma almeno una volta al giorno. Uomini, voi dite a vostra moglie che le volete bene? Sì o no? Una volta al giorno? Una volta alla settimana? Una volta al mese? Una volta all'anno? Questo fa la differenza. Perché se più raramente tu lo dici, e più sale il sospetto. Perché se io lo dico e mi sforzo di dirlo una volta al giorno, mia moglie dice: ok, non si è dimenticato oggi, ci credo. Ma se io glielo dico una volta al mese, lei dice: e mo che vuole questo da me? E vabbè, questo è tutto un altro fatto. Comunque, non siate timorosi, timidi a dire a vostra moglie che le volete bene. Non lo siate, perché questo vi fa solo bene. Sapete, io quando dico a mia moglie ti amo, ti voglio bene, io le sto dicendo ti apprezzo, io le sto dicendo dammi un po' di confidenza, io le sto dicendo per me sei l'unica, io mi sto dicendo non ti dimenticare mai di questo fatto. Non perdere mai di vista l'impegno e il patto che hai preso. Quindi io sto dicendo e mi sto dicendo. Ora è interessante, sarebbe interessante capire quello che mia moglie capisce quando io le dico ti voglio bene. Però è una ricerca che faremo in un altro momento, in un altro contesto, e che magari faccio solo io. Vabbè, che è una cosa mia. Dio sta dicendo ti amo. Che cosa vuole dire? Che cosa capiamo? Quando io dico a mia moglie ti amo, lei in fondo pensa un po' come lo merito, ti ho sopportato tanti anni, un po' come lo merito. E sapete, noi alla fine pensiamo più o meno la stessa cosa. Quando Dio ci dice ti amo, pensiamo a me un po' come lo merito. Perché? Perché sono tante persone peggio di me. Un po' come lo merito che Dio mi ami. E poi abbiamo detto che Dio è amore, che Dio è buono. Quindi, un po' come lo merito. Dio è buono. È anche un po' semplice, perché alla fine perdona tutti. E quindi alla fine vissero tutti felici e contenti. Questo è quello che può essere il pensiero di fondo, conscio o inconscio, nel nostro cuore. Quando Dio dice ti amo, e Dio ha tanto amato il mondo. Ma non è così. Non è affatto così. Quando Dio dice di amare il mondo, sa esattamente di che cosa sta parlando. Quando Dio dice di amare il mondo, sa esattamente di che cosa sta parlando. E Dio ha un'idea molto chiara di me, di te, del mondo. Infatti, senza che andiamo tanto lontano, proprio nei primi tre capitoli dell'Evangelo di Giovanni, già viene fuori esattamente quello che Dio, che Gesù intende nel dire la parola mondo. In Giovanni, al capitolo 1, il versetto 10, ed egli, cioè Gesù, la parola, era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto a casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Il mondo per Dio è qualcuno che lo ha rigettato, che non gli ha dato il benvenuto. Tu immagina che entri da qualche parte e ti senti un clima ostile, ti senti rigettato, ti senti rifiutato. Questo è quello che è successo a Gesù quando è venuto nel mondo, è di quel mondo che sta dicendo, è a quel mondo che sta dicendo io ti amo. Nel capitolo dopo io sono rimasto scioccato. Questo è Gesù, Ora, mentre si trovava a Gerusalemme, Giovanni capitolo 2, versetto 23, ora mentre si trovava a Gerusalemme, alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che faceva. Ascoltate adesso, ma Gesù non si fidava di loro perché li conosceva. Cioè, noi non ci fidiamo delle persone perché non li conosciamo. E Gesù non si fida perché li conosce. È scritto così o no? Sta scritto anche nella Bibbia vostra. Cioè, è incredibile. Gesù sa esattamente a chi sta dicendo io ti amo. E più, un po', qualche versetto dopo, nel capitolo 3, dice gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Quindi, quando leggiamo Dio ha tanto amato il mondo, dobbiamo comprendere che Dio ha la piena consapevolezza di chi sta amando. Non è quel Dio versione Babbo Natale che dice, ma vabbè, non fa niente tanto. Lo sa chi siamo tu e io. Lo sa. E se vuoi una versione completa di quello che sa, vatti a leggere il capitolo 1 di Romani. Scrivitelo e vatela a leggere. Io ho preso qualche spunto così, proprio sopra. Uomini ribelli, questo vale anche per Mottola, non è solo a Modugno. Uomini ribelli, bugiardi, invidiosi, pieni di malizia. E poi continua l'elenco. Quando Dio dice ho amato il mondo, quando io penso che Dio sta dicendo a me, e lo sta dicendo a me, io ti amo, mi sta dicendo, Stefano, io lo so che tu sei un uomo ribelle, pieno di malizia, bugiardo, invidioso. Io lo so che sei così, ma non posso fare a meno di amarti. Perché? Perché io sono amore. E sapete, quando noi comprendiamo questo, iniziamo a dare un valore diverso a quelle parole. Gesù non si fidava delle persone, Gesù non si fidava neanche di Nicodemo, perché Nicodemo non è che era meglio degli altri, perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e non c'è neanche un giusto, non c'è nessuno di noi che può dire io sono meglio dell'altro, nessuno. Eppure Dio dice io ti amo. Di quell'amore perfetto, di quell'amore illimitato, di quell'amore che non cambia, ma anche di quell'amore selettivo e di quell'amore che può crescere. L'amore di Dio ha pagato un prezzo e il prezzo è stato suo figlio Gesù sulla croce. Qui potrebbe iniziare un altro studio di un'altra orata, non orata il pesce, di un'oretta. Potrebbe iniziare, ma credo che noi immaginiamo che cosa significa dare il proprio figlio. e non dare il proprio figlio per qualcuno, sempre per quelli bugiardi, invidiosi, eccetera eccetera. Sapete, quando io dico a mia moglie ti amo, sapete quando è vero? Quando io sono disposto a pagarne il prezzo. Non c'è amore senza prezzo, non c'è amore regalato, non c'è amore gratuito, non c'è amore che riceve soltanto. C'è amore quando tu paghi un prezzo, e Dio ha pagato il prezzo, ha pagato il prezzo più alto. Ma sempre nello stesso versetto Gesù rivela a Nicodemo il contesto spirituale nel quale viviamo. Gesù dice a Nicodemo: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché chi crede in lui non è più condannato, ma chi non crede in lui è già condannato. Quindi dobbiamo stare attenti nel capire che Dio non è che cammina per strada, ci vede passeggiare e dice questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo in paradiso, questo all'inferno. Noi partiamo, o siamo partiti tutti, da una situazione di condanna, ma poi è successo qualcosa per cui abbiamo ricevuto la soluzione. E sapete cosa? Non dipende da Dio se noi siamo salvati, dipende da me. Se tu vai a finire all'inferno o io vado a finire all'inferno, non è che dipende da Dio che non mi ha scelto. Sì, Dio ha voluto più bene a mia moglie, mia moglie va in paradiso, lo dico io. No, partiamo tutti da una condizione di condanna, di morte, ma credere in Gesù ci fa passare in una condizione di salvezza e di vita, e di vita eterna. Quindi l'amore di Dio ha avuto un prezzo, l'amore di Dio ha avuto un proposito, e il proposito è la salvezza, il modo per poter ricevere questa salvezza. E io non sto parlando, guardate, io non sto parlando solo della salvezza del giorno che abbiamo ascoltato l'Evangelo, c'è stato un appello, abbiamo alzato la mano, non sto parlando di quello. Io sto parlando della salvezza di cui ogni giorno abbiamo bisogno, perché noi siamo quegli uomini ribelli, invidiosi, eccetera eccetera eccetera, che sono in un percorso di cambiamento, ma forse nessuno di noi è arrivato. E se noi non siamo arrivati, significa che abbiamo quotidianamente bisogno della salvezza. E quella salvezza si ottiene sempre allo stesso modo, credendo in Gesù. Voglio concludere con un versetto che meriterebbe un po' più di attenzione. Romani, capitolo 5, il versetto 5. La speranza non delude. La speranza di passare da quella condizione di bugiardo, eccetera, a diventare un servo fedele al quale Dio dice: mi sei piaciuto, che è la mia aspirazione. Quella speranza ha una radice sana, ha un motivo vero e solido per essere concreta. Perché? Perché è scritto in Romani al capitolo 5, versetto 5, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Quell'amore che abbiamo detto fino ad adesso è stato sparso nei nostri cuori. Ma la chiave è sempre quella: io posso credere e quindi afferrarlo e pagare il prezzo di vivere per quell'amore, quindi rinunciare al peccato, quindi perdonare, quindi mantenere le promesse che faccio a Dio. Oppure posso pensare, beh, vabbè, tanto alla fine, dai, Dio è buono. È tutto lì. Ed è tutto lì ogni giorno. È tutto lì per te e per me. Che cosa noi ne faremo di questo amore? Che cosa ne faremo? Lo lasceremo così? O lo metteremo a frutto nella nostra vita? Pagandone il prezzo. Gesù è venuto per questo. Gesù è venuto affinché tu e io possiamo avere quella vita esuberante che deriva, è direttamente proporzionale alla quantità di amore che noi riusciamo a esprimere e a vivere l'amore di Dio nel nostro cuore. Io spero per me, ma spero anche per ognuno di noi, che questa mattina possiamo prendere coscienza di questo fatto e dire: mo, Signore, questo è l'amore che tu hai per me, questo è l'amore che tu hai messo in me, questo è l'amore con il quale io posso amare. Ci voglio provare. È per questo che serve la Chiesa, è per questo che servono i gruppi familiari, è per questo che noi usciamo fuori a evangelizzare. Perché? Perché l'amore di Dio ci costringe. Questo amore, non l'amore, qualcosa di diverso. Io spero che cogliamo quello che il Signore ci vuole offrire, ci vuole dare, e lo mettiamo in pratica, lo mettiamo a frutto per la nostra vita. Questo porterà beneficio nella nostra vita, questo porterà beneficio nella nostra famiglia, questo sarà un balsamo per i nostri figli, questo renderà la nostra Chiesa senza ruga e senza macchia. Questo darà gloria a Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare per la tua parola, che non smette mai di insegnarci e di mostrarci chi sei tu e chi vuoi tu che noi siamo. Signore, grazie. Grazie per il tuo amore. Grazie per la fiducia che tu hai avuto nel credere che io, che noi potevamo cogliere questo amore e viverlo nella nostra vita. Aiutaci, Signore, aiutaci a farlo per la gloria del tuo nome, per l'avanzamento del tuo regno. Benedici la tua parola nel nostro cuore e noi benediciamo il tuo nome. E ti ringraziamo. Amen.